Cari amiche, cari amici, benvenuti a Radio Alma, Brussellando, Maridia ai microfoni questa sera e dopo una bellissima giornata solare, tanta pioggia, mamma quanta ne ho presa per arrivare in studio, ma siamo qui puntualissimi per regalarvi un'altra puntata ricchissima di ospiti, di contenuti e sicuramente di tanto divertimento. Quindi riposatevi, immagino quanti sono già a casa e quanti invece stanno rientrando e ci ascoltano, come spesso mi dicono, in macchina con loro autoradio, quindi saluto proprio tutti quanti voi, italiani, francofoni o tutti coloro i quali parlano italiano. Saluto Dani M. Regia. Buonasera a tutti, ho un annuncio da fare, è un annuncio che dedichiamo a Georges Laurent e soprattutto lo indirizziamo a chi l'ha visto. Chiunque avesse visto Georges Laurent, la cui presenza diventa sempre più straordinaria, concedetemi la metafora, è pregato di fare un tweet at Brussellando. Beh, il primo che twitta ovviamente vince un premio. Sì, una serata con Georges Laurent, ma lui non lo sa. Tra l'altro non si dovrebbe mai parlare degli assenti, però Georges ci sta ascoltando, quindi Georges, il suo spirito è qui con noi. Il suo spirito è qui con noi. Quindi veniamo alla nostra puntata di stasera. Abbiamo due ospiti, per l'appunto un ospite in studio. Sono contenta perché questa abitudine di avere anche degli ospiti in studio finalmente si sta materializzando, quindi riusciamo ad avere molto più spesso rispetto al passato un ospite con noi e un ospite invece radiofonico che ci racconterà qualcosa della Svizzera e soprattutto ci dirà perché gli svizzeri sono più intelligenti di chi poi lo scopriremo. Prima di passare alla telefonata e di raccontarvi qualcosa in più su questo libro, volevo ricordarvi due eventi. Uno è giovedì 27 febbraio dalle 20 alle 22 proprio qui presso la Maison de Culture de Saint-Gilles, in cui si esibisce, scusate sto cercando di leggere correttamente il nome, By Camara Junior, quindi dalla foto sembra simpaticissimo e vi consiglio veramente di partecipare, per lo più che l'entrata è anche gratuita, quindi se non avete impegni per il 27 dalle 20 alle 22 qui proprio a Radio Alma, Maison de Culture de Saint-Gilles, Rue de Belgrade 120 dalle 20 alle 22. E Grand Larcenie, infatti Grand Larcenie invece, ora capisco bene perché il Deplian è fatto così, dalle 21 alle 22 invece Grand Larcenie, quindi è un'unica serata organizzata per l'appunto dalla nostra radio, Radio Alma, in collaborazione con il comune di Saint-Gilles, con la Maison de Culture e con il servizio di cultura di Saint-Gilles. Quindi si chiamano le sessioni dell'Espace D, non è Maridì, però è l'Espace D, e sarà quindi giovedì 27. Veniamo invece alla prima ospite di questa sera, Rosaria Guerra. E Rosaria Guerra ha scritto un libro insieme a Jacopo Fo, sì, avete capito bene, proprio lui, il figlio di Dario Fo e Franca Rame, ma noi preferiamo ricordarlo proprio come autore in particolare di questo saggio molto divertente, che ci spiega come mai gli svizzeri sono più intelligenti. Vi ricorderete che a Brussellando abbiamo già parlato di Svizzera, quindi ne approfitto per salutare anche Flo Regina con il suo paradiso apparente, la quale aveva condiviso con gli ascoltatori di Brussellando quelle che erano delle peripezie vissute proprio in terra elvetica. E i libri che non lesinano su stereotipi, cliché, luoghi comuni della Svizzera e dei confederati abbondano sugli scaffali. Vi ricorderete Lo chalet altri miti di Oliver Skass, alla smaliziata rilettura del paese di Robert Walser, una specie di uomini molto istruiti, fino all'inno della normalità suggerito dal Se Dio fosse svizzero di Hugo Lescher. Ma l'ultimo titolo uscito, per l'appunto perché gli svizzeri sono più intelligenti, spiazza un po' tutti, soprattutto perché nessuno si aspettava che Jacopo Fo, uno degli artisti italiani più dissacrante, quanto di più lontano dal politically correct, potesse insomma elogiare in maniera così sverticata il modo di vedere il mondo degli elvetici. Questa sera è in diretta telefonica con noi invece la coautrice Rosaria Guerra. Rosaria, benvenuta a Radio Alma, a Brussellando. Grazie, buonasera. Allora, siamo molto curiosi di capire un po' di più di questi svizzeri, però raccontaci come nasce prima di tutto la tua collaborazione con Jacopo Fo. La mia collaborazione con Jacopo Fa nasce da lontano, perché io sono una giornalista, ho avuto il piacere di intervistarlo qualche anno fa, quando mi occupavo per una rivista italiana di salute e benessere, e lui tra le sue mille attività ha anche un bellissimo agriturismo sulle colline dell'Umbria vicino Perugia, e poi ne sono stata lì da lui, e da lì è nata poi una collaborazione, un'amicizia che è andata avanti negli anni. E un po' di tempo fa mi ha proposto di collaborare per realizzare questo libro, e aveva questo progetto in cantiere da tanto tempo. Io sono stata entusiasta di aiutarlo. Tra l'altro, anche perché ho... Sì. Sì, no, prosegui. In realtà poi io ho un amore per la Svizzera un po' antico. Ecco, c'era un doppio motivo allora. Sì, in realtà sono anche un po' di parte, perché ho trascorso in Svizzera tutte le estati della mia infanzia e prima adolescenza, perché avevo dei parenti a Ginevra, quindi avevo il piacere e la fortuna di poter passare le vacanze lì. Per cui, insomma, è un amore lontano, poi ovviamente è stato comunque approfondito da queste ricerche, che da questi studi, da altri viaggi compiuti poi in seguito. Ok, allora io partirei dal titolo, perché io credo che già il titolo ci dica tanto. Gli svizzeri sono più intelligenti, ma innanzitutto più intelligenti di chi? Allora, l'idea originale era più intelligenti degli italiani, e poi siccome li siamo anche un po' permalosi, allora abbiamo detto vabbè, non diciamo che sono più intelligenti degli italiani, però in realtà si partiva da lì. No, al di là della provocazione, sicuramente si vuole partire da uno spunto di riflessione, capire come mai, pur essendo così vicine geograficamente, siamo così lontani culturalmente, e capire come ci siamo arrivati, cioè da dove siamo partiti, quali sono le scelte che abbiamo compiuto nel corso dei secoli, anche se poi la nostra storia si è intrecciata più volte, e com'è che siamo così diversi, soprattutto oggi, insomma, in questo momento storico in cui le cose in Italia non vanno proprio benissimo. Allora, io partirei proprio da questo punto di vista, partirei proprio dall'inizio, perché il libro offre effettivamente un interessante excursus storico proprio sulla formazione stessa della Svizzera. Quindi parto con la prima domanda, che mi ha anche in la parte che insomma pure mi ha incuriosito: come mai gli svizzeri sono riusciti a evitare mille guerre? Partirei da lì. Sicuramente perché sono intelligenti, ecco, quindi torniamo alla risposta che è il titolo del libro, perché comunque hanno investito le loro energie, le loro risorse economiche all'interno del loro territorio, e piuttosto che andare a fare la guerra fuori hanno sfruttato le guerre degli altri, perché sappiamo che gli svizzeri avevano e hanno ancora un esercito fortissimo, e per secoli hanno combattuto le guerre degli altri come mercenari, facendosi pagare, e in questo modo portando capitali in Svizzera che venivano investiti in altre attività, come ad esempio nelle banche o nell'imprenditoria. Quindi sono stati molto intelligenti a sfruttare le guerre degli altri. E se bene fossero un popolo molto bellicoso, che si è difeso con coraggio e con forza anche dai romani e da tutti gli altri popoli che hanno cercato di invaderli, da un certo momento in poi hanno deciso di non combattere più. L'ultima guerra in cui hanno combattuto e sono stati sconfitti è stato nel 1515, la battaglia di Marignano in Italia contro i francesi, e poi sono stati coinvolti nella guerra dei 30 anni fino alla metà del 600 circa. Da quel momento in poi hanno scelto la neutralità e hanno richiesto un riconoscimento internazionale da quella che era l'Europa di allora, di questa loro neutralità che hanno mantenuto fino ad oggi, riuscendo ad evitare anche due conflitti mondiali. Assolutamente, quella era tra l'altro la pace di Vestfalia nel 1648, e da lì in poi tante cose sono accadute proprio sullo scacchiere, diciamo, europeo, che passava poi da una potenza unilaterale come quella spagnola ad una multilaterale. Allora passerei proprio al passo successivo: perché Elvezia? Perché, mi scusi? Perché Elvezia? Perché si sono chiamati Allora, penso che il popolo già si chiamasse Helvezi, però come mai Helvezia? Perché raggruppa poi più comunità linguistiche al suo interno. Sì, perché fin dall'antichità il territorio alpino, che poi è diventata l'attuale Svizzera, è stato un crogiolo di civiltà differenti. Molto forte era la popolazione celtica, ma anche i celti stessi erano divisi in altre tribù. Quindi fin dall'inizio hanno dovuto trovare un equilibrio pacifico anche tra di loro per poter poi in qualche modo prosperare, e da allora c'è stato un grandissimo rispetto di quella che era la diversità, considerata come una ricchezza, e si è teso a creare un paese multiculturale, multirazziale, multireligioso. Sicuramente gli Helvezi erano uno dei popoli più forti, e sono quelli che si sono scontrati con Cesare e gli hanno dato del filo da torcere, anche se poi alla fine sono stati comunque sconfitti dai romani. Ma nonostante la sconfitta, anche la colonizzazione romana al tempo degli Helvezi è stata piuttosto instabile, perché non sono mai riusciti a sottometterli completamente, hanno sempre mantenuto delle isole di indipendenza e quindi in qualche modo hanno continuato a mantenersi liberi, se vogliamo. Allora, voglio riportare un passo che è proprio estratto dal saggio, che spiega un po' le differenze tra italiani e svizzeri, e poi magari possiamo proseguire sul perché gli svizzeri sono meglio. Ascoltate. Sì. Abbiamo una selva di leggi massacranti, quindi cito quello che tu e Jacopo riportate nel saggio. Sì. In Svizzera, se vuoi aprire una pizzeria o costruire una casa, ti dicono rapidamente se puoi farlo oppure no. E se puoi farlo, lo fai subito. Se poi realizzi qualche cosa che è contro la legge, te la radono al suolo, senza perder tempo, in appelli e contrappelli. In Italia ti fanno morire con pratiche che possono durare decenni, e se fai causa per ottenere quel che ti spetta, anche i processi durano 10 anni. Per aprire una pizzeria devi ottenere l'autorizzazione da una 70 di entità pubbliche. Poi però, se costruisci un errore che non è in regola con nessuna legge, tra bustarelle, indultini, sanatorie e cavilli legali, te la cavi sempre. In Italia c'è più criminalità che in Svizzera, anche perché se fai una rapina in Svizzera la pena poi te la sconti tutta. In Italia alla fine sconti metà della pena. Perché un bandito svizzero dovrebbe rapinare in Svizzera quando l'Italia è a un passo? Ecco, appunto. No, quindi perché gli svizzeri sono... Mi è venuto in mente un articolo che è apparso su Repubblica lo scorso sabato, e mi ha interessato in modo particolare perché racconta di iniziative da parte di privati cittadini italiani, da Torino fino a Palermo, che si stanno unendo per cercare di recuperare quegli spazi abbandonati delle città e dei quartieri. Quindi parliamo delle ville storiche, parchi, giardini, teatri, chiese, per farne dei laboratori, delle aree di svago, delle aree di aggregazione. Dato che lo Stato fa molta fatica e comunque c'è sempre una difficoltà da un punto di vista burocratico e anche economico, molti si stanno riunendo proprio per dire: beh, cominciamo noi a fare qualcosa insieme nel nostro piccolo, dal nostro quartiere. Quindi ci sono dei segnali di un'Italia che funziona, che vuole cambiare, che vuole migliorare e che non sta più con le mani in mano, però si scontra paradossalmente con una burocrazia che non ha mai fine. C'è un'intervista ad un avvocato di Bologna che dice come, quando ha nevicato l'ultima volta a Bologna, gli avvocati si sono messi insieme e hanno ripulito dalla neve le scale del tribunale. E allora gli è venuto in mente di ripulire anche i portici di Santo Stefano a Bologna. E hanno dovuto attendere 8 mesi di riunioni tra il Comune di Bologna e le Belle Arti per avere l'autorizzazione a pulire i portici. Ecco, 8 mesi sono lunghissimi. E allora hanno pensato di creare uno strumento diciamo per snellire un po' tutta questa attesa burocratica, e si chiama primo regolamento sull'amministrazione condivisa, proprio per far sì di non incorrere in multe, in sanzioni ed evitare le lungaggini, e poter iniziare a operare fin da subito con l'approvazione dell'amministrazione pubblica, un minimo di organizzazione anche per quanto riguarda gli strumenti che poi occorrono per lavorare, e poter così intanto andare avanti, perché altrimenti non si riesce a fare mai nulla, insomma. Assolutamente, tra l'altro questo lo scopro con piacere, perché riconosco che non ero a conoscenza. Ho scoperto che molte cariche pubbliche non danno la possibilità di ottenere denaro in cambio dei servizi forniti alla comunità. Sì, assolutamente. Non solo, a volte sono così poco remunerate che nei piccoli comuni si fa fatica a trovare qualcuno che voglia poi ricoprirle le cariche pubbliche. E comunque in Svizzera, al contrario dell'Italia, forse anche di altri paesi, non esistono politici di professione, cioè chi assume una carica politica continua a mantenere il suo vecchio mestiere, il suo vecchio lavoro, anche il presidente della confederazione in carica continua a fare il ministro, e il nuovo incarico non significa un aumento di guadagni oppure l'acquisizione di nuovi privilegi, perché viene considerato come un servizio alla comunità, al paese, ai cittadini. È un onore. Certo, assolutamente. Pubblico. Mi sembra di capire che, se ricordo bene, uno degli slogan, per l'appunto, la Svizzera sei tu, e quindi il governo effettivamente è veramente il governo del popolo, che appartiene a tutti. E parlando del governo, poi ci avviamo anche verso la fine di quello che è il saggio stesso, si legge per esempio che il governo è formato da 7 ministri eletti dall'Assemblea federale, e i ministri coprono a turno anche il ruolo di presidente della Confederazione. Sì. E questo pure è un elemento di novità rispetto, diciamo, a quello che accade altrove, perché penso che soprattutto in Italia la carica di presidente sia sempre molto ambita. No, invece lì va, ecco, a turnazione, dura un anno, l'attuale presidente in carica è anche ministro degli affari esteri, e come dicevamo non c'è l'acquisizione di privilegi, insomma, e le decisioni vengono sempre prese in via collegiale, sempre. Quindi ieri parlavo a proposito con l'ambasciatore svizzero qua a Roma, e mi diceva che un punto di forza sicuramente della Svizzera è un sistema basato sul compromesso. Assolutamente. Da sempre, perché credo che sia un'eredità proprio della loro multiculturalità, e quindi questo comporta una costante ricerca di equilibrio già a monte delle decisioni. Quindi quando una decisione viene presa, poi è quella, perché c'è un grande lavoro precedente, anteriore, e sicuramente c'è questo senso del bene comune in cui noi difettiamo, purtroppo. E in questo forse gli svizzeri ci possono insegnare qualcosa, cioè imparare a considerare lo Stato, come diceva lei, lo Stato sei tu, per noi invece è sempre qualcosa di alto. Assolutamente, lo Stato di estraneo e di esterno. È sempre qualcun altro. E c'è un esempio anche, sì, un esempio che viene citato proprio nel saggio, si fa riferimento per esempio ad una fontanella anche piccola che magari è mal funzionante, il cittadino svizzero si sente in dovere di doverla riparare, quindi se ha a casa una cassetta degli attrezzi non si reca prima in comune per protestare che la fontanella non funziona, ma va a casa e se ha la cassetta degli attrezzi poi ritorna proprio per porre un rimedio alla situazione. Però volevo invece avere un suo commento sul ruolo delle donne, perché i movimenti femministi in Svizzera nascono intorno al 1830, il voto alle donne viene riconosciuto solo nel 1971, mentre le professioni vengono per l'appunto aperte anche alle donne già nel 1950, quindi da un lato un po' indietro nel tempo per certi aspetti, dall'altro poi invece apre ben presto a tutta una serie di realtà che in Italia soprattutto arriveranno più tardi, e chissà se veramente poi sono arrivate. Ma in realtà, diciamo, da questo punto di vista la società svizzera è piuttosto maschilista, se così possiamo dire. Come diceva lei, il diritto di voto alle donne è stato riconosciuto nel 71, le pari opportunità anche nella Costituzione del 1981. Sì. E quindi in realtà, diciamo, molto più tardi rispetto ad altri paesi. Sicuramente la società svizzera e vetica è stata caratterizzata sempre da una preponderanza dell'essere maschile, anche forse per il carattere militare, no, in qualche modo della loro cultura. Però se andiamo un po' un po' tanto indietro, quindi arriviamo alla preistoria. In realtà tra le popolazioni celtiche la donna era considerata al pari dell'uomo, mm-hmm. tant'è vero che poteva possedere beni, proprietà, terre, si sposava liberamente, poteva divorziare e conservare le sue proprietà, e non solo, era tenuta a prestare servizio come guerriero, quindi le donne combattevano nelle guerre e potevano comandare eserciti. E durante il Medioevo potevano far parte delle corporazioni e avviare e mantenere un'attività artigianale o un'impresa, soprattutto poi quando gli uomini erano comunque via a combattere. Però lentamente, quando la Svizzera ha smesso di combattere, gli uomini sono rientrati poi, diciamo, nelle loro case, il ruolo della donna è diventato sempre un pochino più soffocato in qualche modo, fino a pochi decenni fa. Però devo dire che stanno recuperando velocemente, perché se andiamo a vedere il tasso di occupazione femminile è aumentato negli ultimi tempi di 2 punti percentuali. Comunque hanno già avuto un presidente donna della Confederazione Elvetica già nel 1999 e quindi insomma diciamo che stanno recuperando terreno sicuramente. E passiamo ancora a due aspetti, uno che è molto caro a Bruxellando, perché Bruxellando si occupa prevalentemente di libri e di cultura, e questa volta faccio riferimento ai Nobel, perché c'è un capitolo proprio del saggio Svizzera, terra di Nobel, che reca la sua firma. Possiamo dire qualcosa in più, perché ci sono dati interessanti che riguardano la Svizzera? Sì, è vero, molto interessanti, ma ci sono anche altri dati che lì non sono riportati, per cui sembra che la Svizzera sia il paese più innovativo del mondo, secondo un rapporto dell'Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale, e anche il terzo paese più felice del mondo dopo la Danimarca e la Norvegia. L'Italia è un pochino più avanti per quanto riguarda l'innovazione, cioè più indietro diciamo nella classifica. Per quanto riguarda l'innovazione siamo al 29esimo posto, per quanto riguarda la felicità siamo al 49esimo posto. Gli elementi che sembrano rendere un popolo felice sono il reddito pro capite, ma anche altri elementi come la pace, la stabilità sociale e politica, che portano poi a quel benessere e a quella prosperità economica che in qualche modo è terreno fertile anche per lo studio e per la ricerca. E la Svizzera è stata scelta da molti ricercatori e scienziati proprio per condurre le loro indagini, e come diciamo lì, negli ultimi 60 anni c'è stato un altissimo numero di premi Nobel svizzeri, e la Svizzera ha il più alto numero di scienziati immigrati da tutto il mondo rispetto agli altri paesi, ancora più degli Stati Uniti, e ogni anno assegnano borse di studio sia ai paesi in via di sviluppo che ai paesi industrializzati, e sembra che poi la metà di questi studenti, di questi ricercatori, rientri comunque al paese d'origine. Però certamente un paese stabile, prospero, favorisce uno sviluppo e un progresso nel campo della ricerca e dello studio. Assolutamente, tra l'altro, come dicevano i latini, mente sana in corpo sano. E sono anche tante le medaglie che invece poi vengono vinte proprio dagli svizzeri in molte delle competizioni internazionali. Magari così brevemente qualcosa su questi primati sportivi svizzeri. Sì, io non mi ricordo esattamente il numero, mi sembra che ci sia un totale di oltre 300 medaglie tra giochi estivi ed edizioni invernali, quindi comunque è un grande investimento anche nello sport, a quanto pare dà degli ottimi risultati, insomma. Per l'appunto. Allora, questo ci porta verso la conclusione della nostra, diciamo, della panoramica sul suo saggio, però c'è qualcosa che vorrebbe aggiungere che ancora non gli abbiamo chiesto? Un messaggio magari, che idea si è fatta, magari vuole dare qualche suggerimento? Ma io l'altro giorno stavo ascoltando in televisione un sociologo italiano, un docente che si chiama De Masi, un professore, mi sembrava che dicesse una cosa interessante, perché parlava dei modelli che esistono al mondo attualmente, sono circa una trentina, e diceva che in realtà nessun modello è perfetto, alcuni hanno dimostrato di non poter proprio funzionare, però ci sono tre valori che accomunano i vari modelli. Lui parlava della bellezza, della saggezza e del meticciato, quindi dell'integrazione tra diverse uh-huh. culture. E lui, diciamo, diceva che per cominciare, per mutare il nostro paese, dobbiamo cominciare a mutare il nostro modello, e quindi possiamo farlo soltanto partendo proprio dal piccolo e dal quotidiano. E a mio avviso non esiste, cioè non si può parlare di popoli migliori o popoli peggiori, però sicuramente possiamo imparare qualcosa gli uni dagli altri e magari creare dei modelli nuovi, provando a prendere ciò che funziona da ciascun modello e ricavarne un modello nuovo che ci possa portare, insomma, verso un futuro diverso rispetto ad oggi. Ieri, sempre parlando con l'ambasciatore svizzero, mi diceva che quello che secondo lui in qualche modo gli svizzeri ci possono insegnare è il civismo, quindi un recupero del valore delle regole che è venuto a mancare negli ultimi tempi e che invece deve essere riconosciuto. La regola può essere trasgredita, però va riconosciuto il suo valore. Noi abbiamo un po' svuotato il valore delle regole, e sicuramente per quanto riguarda l'Italia ci deve essere un recupero di questo civismo, del senso civico, del senso del bene comune. E da lì possiamo ripartire per mettere a frutto le grandi bellezze, le grandi risorse che noi abbiamo, che tutti ci riconoscono. Al contrario, forse gli svizzeri, questo sempre parlando con l'ambasciatore, mi diceva, forse dovrebbero imparare a evitare quell'eccesso di regole che a volte invece ha l'effetto opposto e quindi soffoca e ingabbia quello che è il genio e la creatività. Esatto, io credo che effettivamente si possa sintetizzare così il messaggio, insomma, trovare quella sintesi tra genio e sregolatezza che caratterizza ora l'uno e ora l'altro. Allora, ho trovato anche la nota sulle medaglie, perché io penso che sia molto interessante. La Svizzera ha partecipato a tutte le edizioni dei Giochi Olimpici e ha ospitato i Giochi Invernali due volte. E gli atleti svizzeri hanno vinto un totale di 312 medaglie, 185 delle quali ai giochi estivi e 127 nelle edizioni invernali, quindi insomma mi sembra essere un risultato notevole. Rosaria, state già lavorando a qualcos'altro, oppure la tua esperienza con Jacopo Fo cioè continuerà, oppure si ferma qui al genio svizzero? Sicuramente continuerà. Benissimo. Abbiamo tante idee. Va bene, allora ci fermiamo ancora nel mondo delle idee. Noi ringraziamo Simone Marchi, che è stato il nostro trade union, e quindi la casa editrice Lorenzo Barbera, e vi ricordiamo, per l'appunto, Gli svizzeri sono più intelligenti, che è proprio edito da Barbera Edizioni. Noi ringraziamo Rosaria per essere stata qui con noi. Grazie a voi. E speriamo, chissà, di ritrovarvi presto. Buonasera. Buonasera. Ciao. Cari amiche, cari amici, bentrovati, bentornati a Bruxellando. Dani M mi ha tagliato rapidamente prima, ma volevo solo concludere con l'intervista a Rosaria Guerra, dicendo che 20 anni fa Dario Dalò raffigurava senza pregiudizi l'Elvezia sotto il vestito. Invece Jacopo Fo e Rosaria Guerra, sotto le vesti di Mamma Elvezia, hanno scoperto tanta buona roba. E io ringrazio ancora Simone per averci messo in contatto con due straordinari autori. Ma le sorprese di Bruxellando non finiscono qui. Come avevo già annunciato in apertura di trasmissione, anche questa sera abbiamo un ospite in studio, il che mi rende particolarmente contenta, perché l'intervista in diretta con l'autore, in questo caso non è solo autore, qualcosa di più, è molto più dinamica e divertente. E confermo che ho qui accanto a me Peppe Vultarelli. Peppe, benvenuto a Bruxellando Radio Alma. Buonasera Marilena, ciao a tutti gli ascoltatori. Allora Peppe, noi siamo molto curiosi di conoscerti. So che tu hai un passato all'estero abbastanza importante, perché hai girato non solo in Europa ma anche nelle Americhe. Quindi sono curiosa di sapere qualcosa di te, come nasce soprattutto la tua passione per la musica. Ma guarda, io inizio a suonare da piccolo, sono nato e cresciuto in Calabria, in un paese sulla Ionica 106 che si chiama Mirto Crosia, in provincia di Cosenza. E poi, come spesso succede nei piccoli paesi, gli hobby e le strade per i ragazzi sono o il pallone, lo sport, o il catechismo o la musica. In quel caso io ho scelto di suonare, e poi questa passione che ho avuto sin da piccolo è diventato un vero e proprio mestiere quando mi sono trasferito a Bologna all'università, dove ho cominciato a suonare in maniera professionale, a fare dischi, e lì si è concretizzata, diciamo, questa esperienza con la mia vecchia band che si chiamava Il Parto delle Nuvole Pesanti, col quale hai creato qualcosa di straordinario di cui non avevo mai sentito parlare, che è la tarantella punk. Beh, eravamo curiosi di sperimentare l'unione tra le chitarre elettriche e i ritmi del tamburello, e quindi, essendo un gruppo di avanguardisti fuori sede all'Università di Bologna, questo status ce lo permetteva di sperimentare. E quindi la tarantella punk è un melange di musiche tradizionali e di chitarra elettrica, ma anche di impegno, diciamo, di testi impegnati e di situazioni comunque molto calate nel sociale, come a livello letterario e testuale. Tra l'altro non sei soltanto, diciamo, cantautore, ma hai anche composto delle colonne sonore. In particolare mi riferisco alla Vera Leggenda di Tony Villard di Giuseppe Gagliardi, in cui si raccontano per l'appunto le storie di comunità di italiani a Buenos Aires e New York. Allora devi sapere che Bruxellando, il fil rouge, il tema dominante è il viaggio. Come mai hai voluto focalizzare l'attenzione sulle Americhe anziché di parlare dell'immigrazione italiana? Ma la storia del film con Giuseppe nasce dal desiderio di raccontare un po' l'esperienza delle comunità italiane all'estero, che noi abbiamo avuto attraverso questo personaggio, che poi è diventato il pretesto per raccontare appunto tutto questo lungo viaggio tra Argentina e New York e Stati Uniti. E quindi la voglia era quella di raccontare tutte le cose particolari della nostra comunità, le cose belle, ma anche le cose come dire, più colorite, ecco, dall'alimentazione fino al modo di parlare, di gesticolare, di stare insieme. E lo abbiamo fatto in maniera simpatica attraverso questa storia bizzarra di questo musicista che nessuno sa più dov'è, e poi alla fine si trova, vive al Bronx e vende macchine usate. Pare sia un business molto redditizio, soprattutto nelle Americhe, ma di questo parleremo un'altra un'altra volta. Invece poi mi veramente congratulo con te, perché nel 2007 sei stato tra i finalisti del premio Tenco. Sì, col primo album da solista. Nel 2005 sono uscito dalla band e ho iniziato un percorso da cantautore solista, e col primo album, che si chiamava Distratto Ma Però, sono stato al premio Tenco, invitato a suonare, e insomma ho cominciato questa strada nuova, molto diversa da quella precedente, se non altro soprattutto per quanto riguarda il fatto umano, nel senso che è difficile, dopo aver suonato per 15 anni con una band, a ricominciare da soli. E quindi questa cosa all'inizio era difficile, perché il gruppo in un certo senso ti protegge, ti aiuta, ti dà la certo possibilità di avere tanti amici intorno, e invece da solo è diverso. Ma poi è stato bello, perché ho trovato invece tanti nuovi amici, e anche gli amici del Club Tenco sono tra questi che mi hanno sempre sostenuto nel mio progetto. Tra l'altro, qualche anno più tardi, quindi è stato insomma veramente questione di poco, nel 2010 hai vinto come miglior album in dialetto il premio Tenco, e sei stato il primo calabrese ad ottenere tale riconoscimento. Sì, è stato un grande orgoglio vincere la targa Tenco per il disco in dialetto, perché il lavoro sul dialetto l'ho iniziato già nel 90-91, quando partimmo con il mio gruppo, e è stato un riconoscimento non soltanto per quel disco, ma anche per tutto il lavoro, secondo me, sulle origini, sulle tradizioni e sulla lingua soprattutto. Allora, io direi, perché hai portato la chitarra, se sì, ti va di suonarci qualcosa in va diretta, bene, se va ti bene, fa piacere. Allora mi preparo, perché la prendo. E intanto magari possiamo dire che quest'album di cui parlavamo è stato poi tradotto anche in francese dalla prestigiosa etichetta Le Chant du Monde, con distribuzione non solo in Europa ma anche in Argentina e in Canada, con un'altra etichetta casa nostra, scusate. Sì, è un disco che ha avuto tanta fortuna all'estero e, attraverso appunto questa pubblicazione in Francia con la Chant du Monde, che è un'etichetta molto storica, Maison du Disque francese, e quindi il disco è stato le canzoni sono state in programmazione anche per tanto tempo su Radio France, insomma è stata una bella esperienza. Poi in Argentina con gli amici di Los Años Luz e in Canada con questa casa nostra di Marco Cagliari, insomma è un disco che ha avuto una bella storia anche fuori dall'Italia, anche in Germania, insomma in altri paesi, Repubblica Ceca. Ci vuoi fare magari qualcosa del disco precedente? Sì, come no? E poi arriviamo alla novità fresca fresca, quindi siamo contenti di poterlo quasi annunciare globalmente prima degli altri. Quante cose buone, quante vase, troppe vase, quanto niente bello, niente malamente, per isciate sa città, per isciate sa città. Io non voglio niente, un fazzo niente, un dico niente, un tocco niente, un mangio niente, un grido niente, per isciate sa città, per isciate sa città. Quanta gente non si sa, che guarda in basso e capirà, quanto è bella sa città, quanto è bella stare qua, quanto è forte, quanto è storta, quanto è sporca sa città, quanto è bella sa città, quanto è bella stare qua, quanto è forte, quanto è storta, quanto è morta sa città. Shhh, boom, tic ta ta, shhh, boom, tic ta ta, shhh, boom, tic ta ta, shhh, boom, tic ta ta, di di di di di di di di di di di ta, shhh, boom. Bellissimo, veramente. E grazie. Mi facevi pensare proprio alle musiche, sai che cosa stavo pensando? Ai vecchi cantori, quelli medievali che andavano in giro e raccontavano quelle che erano le storie che raccontavano, e mi sembra di ricordare un po', insomma, che queste musiche ricordino anche quei momenti. E la reazione del pubblico quando tu porti queste canzoni tra l'Europa, le Americhe, ovunque tu già sia stato, quali sono le reazioni più imminenti? Ma io fino adesso ho trovato un pubblico sempre molto caloroso e molto attento e curioso di sentire questi canti di un'Italia in un certo senso anche un po' legata, come dicevi tu, alla tradizione, quindi alla terra, un'Italia contadina. E certo suonarli oggi è con una ricerca di stare attaccati alla contemporanea, all'attualità, è sempre un'operazione particolare. Perché come sono canti molto, come dire, molto all'impronta, ecco, molto attaccati anche al momento, per cui è come se fosse una sorta di cronaca quotidiana di quello che succede, in una maniera poi tra l'altro semplice, con la chitarra e con la voce. Quindi ho trovato sempre molta attenzione e devo dire che la percezione che c'è della musica italiana all'estero è molto legata a questo modello appunto autorale di canzone, insomma si ama la lirica, si ama anche l'arte italiana ovviamente, ma si ama anche proprio la canzone italiana nella sua essenza più classica, diciamo, dal canto antico napoletano dell'Ottocento fino alla canzone popolare dei contadini. Beh, seguendo quello che si ritrova poi nel tuo caciocavallo di bronzo che hai avuto proprio all'Istituto di Cultura qualche giorno fa, quello che in alcuni luoghi può essere un disvalore come il talento, in altri luoghi poi invece viene acclamato, esaltato, fino a rendere quel sogno più di una realtà. Ah, per fortuna, beh sì, penso che siano delle storie comuni un po' a tutti quanti i paesi. Certe volte si scappa perché non si riesce a trovare giustizia in famiglia propria, no? E quindi si cercano sempre altri approdi, altre famiglie, altri condomini. E poi le storie effettivamente, anche se ora sai, gli emigranti o i migranti non sono più chiamati tali, soprattutto qui a Bruxelles, ma sono diventati expat, fa tanto figo, no? Non sei più migrante, ma sei un espatriato. Però è un bel termine. Assolutamente, questo è anche forse probabilmente un certo tipo di evoluzione. Veniamo invece al Caciocavallo di bronzo, che è invece un tuo romanzo edito in Italia da Stampa Alternativa. Sì, è un romanzo... Perché di bronzo? È di bronzo perché è un monumento che viene costruito in bronzo per celebrare appunto una terra nella sua storia e eventualmente anche la sua rivincita. Il bronzo è un materiale prezioso, ma non è quello più prezioso evidentemente, e quindi, come dire, è un monumento anche che esorcizza quelli che possono essere i sentimenti dell'invidia, della gelosia, insomma, per cui è come se fosse anche un monumento scaramantico in un certo senso. È cantato e suonato perché è un romanzo fatto di canzoni, anche dentro i racconti sono 19 racconti tipo autobiografico, e ci sono all'interno, tra le pieghe dei racconti ci sono anche molti testi di canzoni, non solo mie, anche canzoni di autori che sono stati usati, diciamo, per rendere fluido il racconto di questo che c'è in questo libro, insomma. E quindi ci sono testi di Tony Sant'Agata, di Bruno Venturini, di Romeo Olivieri piuttosto che Nicola Di Bari, insomma c'è un po' di canzoni popolari calabrese, Buonanotte Cosenza, insomma c'è tanta roba, come se fosse una mappa per ricostruire il posto da cui provengo, ecco, e sia soprattutto una mappa, un promemoria anche per me stesso, proprio per ricordarmi di alcune cose. Beh, la memoria, come sai, va ricostruita, altrimenti poi si tende a dimenticare, guai a chi dimentica. E questo ci porta invece poi al tuo terzo album, Lamentarsi come ipotesi. Sì. Raccontaci qualcosa di più già per il titolo che hai scelto, Lamentarsi come ipotesi, quindi... Lamentarsi come ipotesi è un po' è una specie di strada, di terza strada, ecco, una specie di alternativa alle vie principali, è un po' quelle famose strade bianche che percorrevano una volta, che non erano asfaltate, e quindi che facevano un po' i viaggiatori, i bluesmen forse, i pellegrini, quelle strade in cui il lamento diventa una cosa diversa, diventa una sorta di intercalare quotidiano, quasi come se finalmente gli fosse riconosciuto un ruolo civile, insomma un ruolo civile extra rispetto al classico ruolo del lamento inteso come sofferenza e dolore, quasi il lamento come una gioia, diciamo, quotidiana, ecco. E allora io direi riveliamo i titoli dei pezzi, ecco, che sì, nessuno li ha detti fino ad... Questo è un'anteprima, quindi diciamolo, l'album è uscito il 20 febbraio, oggi è il 25, se non mi confondo, sono 12 brani. Sì, 12. Qui non succede mai niente. È quella di prima. E quindi dove c'è ospite Otello Profazio. Io, tu, loro, noi. Che è una canzone d'amore di due che hanno rispettivamente un loro e un noi che combatte, evidentemente. La Mare in Coce. La Mare in Coce è un pezzo che c'ha un titolo in argentino, e appunto dice La Mare in Coce sarebbe il mare in macchina, queste cose impossibili da realizzare. Shakatan è un ballo che è stato creato per le pianure come la Sibaritide. La zattera è una canzone d'amore, sì, che però può essere anche una canzone d'amore di expat, anche Expo. Mm. Si dice Expo? Sì, sì, in francese sì. Il monumento, il ritorniamo monumento forse lì, è sì. questa qui. Sì. Lassami. Lassami sarebbe Lassami, Lasciami è una canzone in francesismo. È una ballata. E si dice Lassam? No, era per dire. È una canzone struggente, sì, una canzone in dialetto. Tra l'altro ci sono due pezzi in dialetto in questo disco. Pipa. È la pipa è una canzone dedicata al fumo, da un non fumatore, è perfetto praticamente. Stai attento perché stai in Belgio, dove qualcuno ha detto sì sì ne passi un pip, quindi se qualcuno ti fa una sì, battuta da qualche parte ho scoperto, infatti potrei difenderti, però c'è subito il martello dopo. Esatto, quindi passiamo da una pipa a un martello. Il martello è una canzone in cui si parla di due persone che sono rispettivamente, hanno dei ruoli ben precisi nella coppia, uno è l'incudine e uno è il martello. E poi e vogliamo sapere chi è chi cosa è? Magari lo scopriremo giovedì sera. Quindi lamentarsi come ipotesi, che è la title track. E tu volessi ridere. Tu volessi ridere un'altra, è la seconda ballata in dialetto del disco. E appunto è una canzone insomma che racconta di questa, di questo desiderio estremo del sorriso, insomma della risata, della gioia sulla bocca di una persona. E poi c'è Specialità della casa, che è l'ultimo pezzo, perché è un balzerino un po' atipico, però siccome c'è questo costume dei dischi che faccio di mettere sempre un balzerino, allora alla fine Raffaele Brancati, il sassofonista, ha detto, il mio amico ha detto, ma scusa, questa è la Specialità della casa, ed è rimasto come titolo. Certo che se la Specialità della casa, che qui non succede mai niente. Beh, andiamo bene. Gioco con le parole. Allora, quale di questi brani vuoi regalare ai nostri amici all'ascolto? Io vorrei farvi sentire La Zattera, che non ho mai suonato. Tra l'altro è un brano in cui nel disco ha suonato un caro amico che si chiama Riccardo Tesi, che è un grandissimo musicista italiano, suonatore di organetto diatonico, fondatore della band italiana, insomma, insomma ha collaborato su questa canzone. Adesso la facciamo senza organetto. Ma abbiamo una chitarra, siamo in buona compagnia. Il giorno in cui non rido mai, il cielo si dimentica di me. Sorriderei, ma non mi va. Coltivo piccolezze e vanità. Tu non lasciarmi mai, non mi deludere. Sarò per te un corpo e un'anima. Tu non tradirmi mai, non mi distruggere. Sarò con te nel mare libero. Come salsedine, come la ruggine, sopra una zattera, con una lettera. Arriverò, arriverò domani e resteremo soli, senza una parola. L'amore è una paralisi, è un salto nel disordine, come noi, proprio come noi. Il giorno in cui non esco mai, la luna ha il cuore tenero, ma vado via senza di lei, in cerca della mia rivincita. Tu non lasciarmi mai, non mi deludere, sarò con te nel mare libero. Tu non tradirmi mai, no, non mi distruggere, sarò per te un corpo e un'anima, come salsedine, come la ruggine, sopra una zattera, con una lettera. Arriverò, arriverò domani e poi saremo soli, senza una parola. L'amore è una paralisi, è un salto nel disordine, come noi, proprio come noi. Direi che per i pochi presenti in studio potremmo fare un applauso. Grazie. Veramente ti ringraziamo tanto. E cosa porteresti con te su una zattera? Ma sulla zattera veramente io non porterei niente. Ah, nemmeno la chitarra? No, niente. Nemmeno. Perché È meglio stare leggeri sulle zattere e poi si trova tutto quanto lì dove si arriva. Abbiamo ancora qualche minuto, quindi se a te fa piacere potremmo ascoltare Lamentarsi come ipotesi. Ma la vogliamo sentire dal disco? La vogliamo sentire dal disco? La possiamo anche sentire dal disco. E Daniele, in regia, è preparato? Sì, perché tra l'altro Lamentarsi come ipotesi nell'album è una canzone molto corale, dove c'è una grande voce che si chiama Letizia Dei, una cantante lirica che interpreta proprio il ritornello, e poi c'è un grande coro dove tutti gli amici che hanno fatto questo disco, in pratica il produttore artistico Finez, Paolo Baglioni, il percussionista arrangiatore Jacopo Meille, insomma Tiziano Borghi, tutti eravamo in studio e abbiamo cantato questo coro che dice appunto: Il lamento per me, il lamento per noi è un godimento. E su questo si può aprire un grande dibattito. Ha voglia, assolutamente. Che speriamo di fare insieme. Parlavamo di Svizzera prima, quindi il passaggio dalle regole svizzere al genio italiano e meridionale, in questo caso, visto che anch'io sono meridionale, quindi unisco al coro di Salerno, quindi regno delle due Sicilie. Ah, siamo sempre lì. Sono stato 2 settimane fa al grande Pest. Ah beh sì, e io sono più o meno da quelle parti, un po' più in su, 19 chilometri. The Music Village a Bruxelles, 27 febbraio alle 20:30. Il prezzo veramente è irrisorio, 10 euro per entrare, quindi io invito tutti coloro i quali veramente sono all'ascolto di partecipare numerosi a questo concerto, perché avete già visto, ascoltato anzi... Io direi un che assaggio. Per gli amici di Radio Alma, se vogliono venire al concerto, diciamo che stasera possiamo mettere anche 2 omaggi. Possiamo dire una cosa, che quanti ci scriveranno, i primi 2 che ci scriveranno a brussellando@gmail.com avranno un viaggio gratis, mangiare, dormire, mantenere, e in più un pezzo di terra al mio ritorno. No, io volevo fare un pezzo di caciocavallo, no, quello l'avrei gradito molto volentieri. Beh, però stiamo parlando con gli amici del Music Village, forse esce anche... Allora, noi in attesa insomma di ricevere la vostra mail, quindi brussellando@gmail.com, potrete partecipare giovedì 27 febbraio alle 20:30 al concerto di Beppe. Intanto vediamo un po' cosa vuol dire lamentarsi come ipotesi. Il lamento è un'arte nobile che si impara per non sciogliersi nelle strade dei convinti, nelle terre dei più deboli. Il lamento ci incoraggia a non perdere la voglia di cercare dei colpevoli, di trovare i responsabili dei nostri fallimenti storici, delle nostre buche in mezzo all'anima, delle paure dietro l'angolo, dei piedi nudi sotto al tavolo. Il lamento è un fatto pratico, è un segnale per non cedere. Lamentarsi come ipotesi, un suono nella solitudine. Tu bacia sempre il santo e credici, lui sopporta il peso della croce mentre guardi le montagne, le salite grandi incognite dei nostri fallimenti storici, le nostre buche in mezzo all'anima, delle paure dietro l'angolo, dei piedi nudi sotto al tavolo. Il lamento per noi è un godimento, è un godimento. Thank you. amiche, cari amici, eccoci qui martedì questa sera in piacevolissima compagnia di Beppe o Peppe Voltarelli. Peppe, allora, il 27 sei in concerto al The Music Village e poi dove ti porterà la tournée belga? Allora, domani saremo a Liegi allo Spazio Aquilone per presentare il libro con un reading e un incontro con gli amici dell'Aquilone, e poi diciamo che vi aspettiamo tutti quanti al Music Village per il concerto di giovedì e speriamo di tornare presto in Belgio, perché adesso 28 c'è già una serata a Pisa, torno subito in Italia e continuo la tournée il 6 marzo a Bologna, il 15 a Torino, il 13 a Roma, insomma il 7 ad Ascoli, c'è un po' un giro per il disco. Sono molto contento però di aver fatto questa tappa belga. E beh, la capitale dell'Europa, Bruxelles, non poteva mancare nella tua agenda. Un saluto, siamo in chiusura, i tempi ahimè serrati, un saluto a qualcuno in particolare? Un saluto a tutti gli amici expat antichi e moderni che vengono all'estero in cerca di fortuna e soprattutto di libertà, e grazie agli amici del Belgio per questa ospitalità multietnica straordinaria. E noi ringraziamo Peppe Voltarelli e vi ricordiamo Lamentarsi come ipotesi, potrete facilmente ritrovarlo, ed è stato come si dice, allora, il libro è pubblicato, il disco è? È stato pubblicato. Pure il disco, ok. Io sono più letto e oriented, quindi da OTR Universal. Quindi vi suggeriamo veramente di ascoltarlo, perché come avete potuto ascoltare, Lamentarsi non è proprio lamento, ma è veramente un inno, Lamentarsi come ipotesi. Io saluto anche Nicoletta Voltarelli, che è stato il mio trade union con... ho detto bene? Sì. Sì, esatto, sì, perché a volte faccio confusione con i nomi. Chi mi conosce ormai lo sa che ho troppo nella testa. Sì. E saluto Dani M in regia. Con Plasma, Nicoletta, diciamo, con Plasma, con Giulio Plasma hanno curato proprio il booklet del disco e la grafica della copertina del libro, che sono veramente originalissimi. Quindi invito tutti coloro i quali sono curiosi veramente di comprare e una copia del libro, quindi Il Caciocavallo di Bronzo, e una copia del CD Lamentarsi come ipotesi. Martedì vi saluta, vi augura un'ottima settimana e vi dà appuntamento a martedì prossimo per una puntata dedicata alle donne. Buona settimana a tutti! Ciao!